ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Beh, questo siluro è veramente un bestione da 1,34 m che superava i 30 kg e è stata una bella lotta. E alla fine l'ho preso, non ci sono riuscito. Andiamo avanti così per un paio d'anni, tutti conditi da racconti della sua gioventù e dall'ossessione del mostro. Storie di pesci e di galli in una puntata che si intitola Animali totemici. Una metalupa. Un'antica bestia. Non ci sono a sud della barriera. Ce ne sono cinque. Vuoi prenderlo? Dove andranno? La madre è morta. Questo non è il loro ambiente. Meglio una morte veloce. Non sopravvivrebbero. Giusto. Dammi qua. No! Metti via quel pugnale. Prendo ordini da tuo padre, non da te. Ti prego, padre. Mi dispiace, Bran. Lord Stark. Sono cinque piccoli. Uno per ciascun figlio degli Stark. Il metalupo è nel vessillo della casata. La sorte ce li ha mandati. Se non avete mai visto Game of Thrones, il Trono di Spade, non spaventatevi, non serve conoscerlo per conoscere la figura di questo animale, che di fatto è un animale misterioso e che guida moltissime delle sorti dei protagonisti di questa serie televisiva. Sono i Dire Wolves, cioè sono questi che vengono chiamati metalupo, di cui appunto si parla nel frammento che abbiamo sentito, secondo l'enciclopedia del Trono di Spade, che ovviamente è un'enciclopedia di un fantasy, quindi ha tutte regole proprie. The dire wolves, cioè questi tipi di lupi, sono unusually large and intelligent species of wolves, cioè sono una specie inusualmente larga, stranamente grossa, sovradimensionata, ed è una specie di lupi molto molto intelligente. Hanno davvero delle sembianze umane quasi nel loro capire, comprendere le cose e addirittura prevederle. Perché abbiamo cominciato così questa puntata parlando dei dire wolves del Trono di Spade? Perché la puntata si intitola Animali totemici. Agli animali totemici sono degli animali che rappresentano un totem di riferimento, come appunto dice la parola stessa, sono qualcosa che va al di là della loro fisicità e del loro essere un pezzo di carne che pulsa e che vive, che ha una vita propria. E le due storie di oggi raccontano esattamente di questi due animali. Uno è un animale che vive nell'acqua corrente della Bassa. Se andiamo proprio qui, poco fuori Milano, è un paesino vicino a Codogno, e siamo esattamente, sì, bravi, Codogno, ahimè, per lungo tempo sarà farà riferimento a quel periodo lì, al primo paese che è stato chiuso prima che il lockdown coinvolgesse tutta l'Italia, la prima zona rossa, e lì ci sono dei fiumiciattoli, dei canali dove vive un animale che da molti pescatori è conosciuto come il mostro, e cioè il pesce siluro. E la seconda storia invece racconta di un altro animale totemico che cambierà totalmente la vita della protagonista, che è una giovane donna che vive ad Haiti, e vive lì quando Haiti è colpita da quel terremoto devastante, e l'incontro con un gallo, con un piccolo gallo e anche un piccolo rito voodoo, le permetterà di cambiare radicalmente vita. Animali totemici è Linee d'ombra, storie di confine, storie che stanno al confine tra il prima e il dopo, in questo caso tra un prima e un dopo l'incontro con un animale totemico. Benvenuti a Linee d'ombra. Mi chiamo Marcello, la storia che vi racconto è ambientata nel basso, basso, bassissimo Lodigiano, territorio prevalentemente agricolo. Per la precisione, il paese si chiama Fombio, una piccola frazione di Codogno, tristemente famoso per essere stato il primo paese zona rossa in Italia. Siamo alle porte di Piacenza, paesaggio agricolo disegnato da innumerevoli canali irrigui, fossi, fiumi, e all'orizzonte la cartolina degli Appennini piacentini, con il Monte Penice a farla da padrone. È proprio su uno di questi canali che comincia questa storia. Da quando mi sono trasferito a Fombio, tutti i giorni, tornando dal lavoro, passo su una sopraelevata che costeggia per un certo tratto un fiumiciattolo, si chiama Brembiolo, un bel canale, immerso nel verde del Parco del Brembiolo, appunto. Mi sono trasferito a Fombio per amore. È stata un po' una storia un po' travagliata la nostra, perché ci eravamo conosciuti da giovani e poi ci siamo ritrovati cinquantenni, diciamo, 40, e ci siamo ritrovati e ci siamo rimessi assieme. In una delle tante curve disegnate dal fiume, incastonato nelle ortiche, a ridosso dell'acqua, un cappello di paglia con sotto un omino attento, un pescatore. E questa immagine la vedevo tutti i giorni. L'ho vista per più di un anno. Essendo anch'io un pescatore, un giorno prendo canna e attrezzatura e mi presento sul posto. E lui, Pepu, l'omino, questo è il suo nome, è là. Ciao, gli dico. Ciao, mi dice lui. E io, buongiorno. Buongiorno, niente. Ciao, basta e avanza. Insomma, l'inizio promette bene. Io sono sulla riva opposta. Dopo il saluto, silenzio. Si comincia. Finalmente il cappello di paglia che vedevo dalla sopraelevata ha un volto. È simpatico, fiero, un bello ometto sull'ottantina, che dopo poco comincia a dispensare consigli su come pescare, su che esche usare e ogni tanto, tutte le volte, mi prende pure per i fondelli, dicendomi di pescare in curva perché i pesci lì rallentano. Andiamo avanti così per un paio d'anni circa, tutti conditi da racconti della sua gioventù e dall'ossessione per il mostro. Il mostro è il pesce siluro, che immancabilmente gli sfuggiva, portandosi via la lenza. E lui, imperterrito, mi diceva sempre: «È sotto, vedrai che arriva il mostro, stavolta non mi scappa. Poi adesso ci sei anche tu, vedrai che prima o poi il mostro lo prendiamo». I wish I was a fisherman, tumbling on the seas. Arriva il 22 febbraio del 2020, è il giorno del primo caso a Codogno, è arrivato il virus, è arrivato il mostro, è tutto chiuso, tutto intorno militari, ambulanze, angoscia, paura, ed è così per 3 mesi. E poi, piano piano, si ritorna alla normalità, se così vogliamo chiamarla. Riprendo a lavorare con la voglia matta di tornare il più presto a pescare e di rivedere Pepu e insieme dare la caccia al suo mostro. Venerdì 1 maggio riaprono la pesca. Bene, penso subito che da domani, dalla sopraelevata, sicuramente rivedrò il cappello di paglia in mezzo al verde. Non vedevo l'ora di poter ritornare a fare la vita normale, diciamo, anche apparentemente, e avevo proprio la voglia di andare a pescare, perché poi vabbè, il periodo era quello giusto, maggio, la primavera inoltrata, così, e avevo proprio anche la voglia di rivedere questo vecchietto qua che vedevo tutti i giorni e che purtroppo non ho più visto. Ci passo il giorno dopo, ma niente. Il tempo passa, il mostro passa, e Pepu? Poi un giorno mi dicono che Pepu non ce l'ha fatta, il mostro ha vinto, se l'ha portato via. Sono ritornato a pescare nello stesso posto, con la tristezza nel cuore e con il compito di prendere quel dannato mostro che tanto desiderava catturare Pepu. E non ci crederete, ma il 20 di giugno del 2020, il giorno del mio compleanno intorno alle 17, ormai rassegnato all'ennesimo cappotto, la lenza parte. È lui, è il mostro di Bebu. 50 minuti di lotta vera, ma stavolta il mostro non ha scampo. Siamo in due a tenere quella canna. Siamo io e Bebu. Alla fine il pesce siluro era un bestione di 1,40 m per 37 kg. La regola vuole che questi pesci alla cattura vengano soppressi, ma io non me la sono sentita. L'ho liberato. Sono sicuro che Bebu avrebbe fatto la stessa cosa. You got yourself a bunch of bad habits. Not hard to see that love is a weakness. Seems to me the way you understand it is that you're never gonna make it happen. I get smoke in my eyes every time I try to look you in the eye. And do I even know what your face looks like? You're just the cloud of smoke in its place. I'm trying to tell you something you might have heard before. You got a dollar in your pocket. Intitola Animali Totemici la puntata di oggi, e avete capito anche il perché. L'avete capito dalla prima storia, la storia di Marcello, che parla sì di un animale, di un pesce siluro, ma parla soprattutto di un pescatore, di un essere umano che invece si chiamava Bebu. Pronto, ciao Marcello, buongiorno. Salve, ciao. Come stai, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Senti, com'è la situazione in questo momento a Fombio, a Codogno e zona limitrofe? Ma guarda, adesso in questo momento è abbastanza tranquilla, diciamo che ci atteniamo alle regole che stanno uscendo in questo momento. Meglio sicuramente di prima, di quando eravamo proprio zona rossa, lockdown. Tu eri dentro quando cioè, intendo dire, già a Fombio, già vivevi in quelle zone ovviamente, no? Quando sì, è successo sì, tutto. Sì, quindi già sei lì. Riuscito ad andare avanti a lavorare, a continuare a fare il tuo lavoro da casa? No, perché in pratica quel giorno lì io sono partito con il mio bel trenino e mi stavo recando al lavoro. Sono arrivato al lavoro e al cancello mi aspettava il mio dirigente, dicendomi vai a casa perché è successo un casino. Io al momento non capivo, perché non ho guardato il telefonino come faccio di solito sul treno, no? Quindi sì, le ultime notizie non le sapevo. E niente, sono ritornato a casa e è cominciato l'incubo. Senti, che lavoro fai esattamente, Marcello? Allora, io sono un operaio, lavoro su delle cabine di riduzione gas. Sono quello che in pratica riduce il gas per poterlo usare nelle case. Ok, quindi il tipico esempio di lavoro che non può essere fatto in smart working, in sostanza. No, assolutamente. Quando sei tornato no. a lavorare? Sono ritornato dopo un mese e mezzo su una richiesta di lavoro che dovevo fare solo io, avendo appunto delle patenti specifiche, sono ritornato a fare proprio una giornata e poi sono rimasto a casa ancora per una ventina di giorni. Senti, invece veniamo alla storia, che è una storia bellissima per diversi motivi. Primo perché questo animale, il pesce siluro, è un animale davvero che è quasi una chimera, no? per i pescatori. Sì. Perché ha questa nomea? Perché questa leggenda sul pesce siluro? Da dove arriva? Guarda, onestamente da dove arriva non so dirtelo, penso comunque dall'Asia, da questo continente un po' così, perché non è autoctono, è proprio stato immesso non so perché nei nostri fiumi e tra l'altro sta facendo anche dei disastri. Perché è un predatore molto forte. È un predatore molto forte e molto vorace. Arriva anche a misure veramente spropositate, 2 metri, 100 kg, una roba brutta. E quindi insomma tra i pescatori della zona è da una parte temuto e dall'altra invece è una sorta di grande premio, una grande vittoria, certo. Un trofeo, esatto. Certo, senti, certo. Ma Pepu, quando eravate insieme lungo il fiume, quanto vi parlavate o quanto invece stavate in silenzio? Ma allora ci parlavamo diciamo a strazi, quando proprio magari c'era la boccata che si perdeva, oppure magari qualcuno tirava su un pesce, una carpa, un cavedano o quello che diciamo boccava, però per il resto era proprio silenzio come vuole la tradizione del pescatore. Sì, quindi certo, l'idea che abbiamo del pescatore silenzioso esiste ancora ed è ancora frequentata. Sì, anche se lui parlava, cioè piaceva molto chiacchierare, però quando era preso, che magari vedeva il galleggiante che si muoveva proprio impietrito, non si poteva più pararci assieme, se no. Sappiamo qualcosa di più su di lui, Marcello? Cioè, guarda, so che era di Somalia, perché poi tra pescatori, quando sono ritornato ancora sul posto, e ci ritorno tuttora, qualcuno lo conosceva comunque molto. Lo conosceva non benissimo, infatti il cognome non sono mai riuscito a sapere come si chiamasse il cognome. Okay. So che si chiamava Giuseppe e il soprannome era Pepu. Ok, però non sappiamo se aveva familiari, figli, nipoti. No, non sappiamo, mi parlava nulla. Di figli, mi parlava che aveva un figlio che però mi diceva appunto che non gli piaceva pescare, era tutto diverso, aveva tutti altri interessi, però da quanto ho capito una bella famiglia, molto tranquilli, cioè una bella famiglia, via. Marcello, invece rispetto ad andare a pesca, è perché è una cosa che io, forse mi verrà, forse magari tra qualche anno, anche se ormai ho già la mia età, non sono un ragazzotto, avevo sempre detto, io quando avevo 20 anni, dicevo, ma cosa ci sarà di bello nel pescare? Magari lo capirò quando ne avrò 40, adesso ne ho 45 e dico, magari lo capirò quando ne avrò 65. mi dici, come dire, per far venire voglia una persona che non conosce quel mondo, qual è la cosa fighissima dell'essere lì con una canna, l'acqua che scorre? E proprio il contesto, c'è cioè proprio il contesto, il silenzio, il paesaggio. Poi allora io a pesca vado alla mattina presto e quindi vedi le albe, parti magari anche con questo periodo comincia la prima nebbia, che a me piace tantissimo. Ah, ok, quindi proprio è la pratica in sé, la parte logistica, la parte di immersione nella natura. I rumori, cioè, senti solo rumori della natura e basta, gli uccellini che cantano, cioè, è tutto chiarissimo, è tutto il contesto. Marcello, io ti ringrazio anche per averci mandato la foto di questo pesce siluro che hai pescato, che Anita ha già postato sui nostri social, quindi se andate sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra o su Twitter trovate la foto di questa sorta di mostro che Pepu cercava e che Marcello ha pescato. Grazie davvero Marcello, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, a presto. A te, ciao ciao ciao, grazie. ciao. Grazie Marcello per la storia che ci ha raccontato, grazie per averci riportato là in quel periodo, e intanto è giusto ricordare per la paura che ci ha fatto, e abbracciamo lui e idealmente anche Pepu. Se avete voglia di mandarci la vostra storia, l'indirizzo è sempre quello: lineadombra@radio24.it. Una storia di confine, una storia di Linea d'Ombra che traccia un prima e un dopo, proprio come ha fatto il virus, come ha fatto la dipartita di Pepu e come ha fatto anche quel giorno di pesca, il giorno in cui Marcello ha pescato il mostro. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Avete dei dubbi in cucina? Chef, la cucina è tutta un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli. 80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione. Ce le mangiamo tutte e 80. Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra. La prossima storia arriva da un'isola che è stata colpita da un terremoto devastante qualche anno fa. È l'isola di Haiti. La protagonista è una giovane donna in cerca di una svolta per la sua vita. E la storia inizia così. C'era bisogno di un cucchiaio di legno, una cipolla verde, una pentola tra le gambe, una bottiglia di acqua della Florida, un'altra di champagne, poi tre candele, ma soprattutto c'era bisogno di un giovane gallo. Mi avevano avvertito di non mercanteggiare sul gallo. Il gallo era imprescindibile. La venditrice di animali aveva 5 galli, ricordo. Uno era vecchio, arancione. 3 erano adolescenti, buoni per combattere, ma non molto altro. L'ultimo era energico, quasi entusiasta. Le sue piume rosse sembravano d'oro alla luce del sole. «Quanto viene?» chiesi. Lei lo raccolse e mi disse $7. La pagai, mi infilai l'uccello sotto il braccio e tornai a casa a piedi. Era l'aprile del 2010. 4 mesi prima un terremoto aveva ucciso centinaia di migliaia dei miei connazionali haitiani. Io e la mia famiglia eravamo di nuovo senza casa e avevo bisogno di cambiare qualcosa. In una puntata che si intitola Animali Totemici, la prossima storia è quella di Naomi Brinvilius. State con noi. Sono nata in una città della costa occidentale di Haiti. Avevo vissuto con mio padre e con mia madre e 7 tra fratelli e sorelle in un quartiere di pescatori, finché la nostra casa non era stata spazzata via da un'alluvione. Abbiamo dormito sul pavimento della casa di una zia e poi in una chiesa battista. Mio padre era un bravo uomo che non riusciva mai a trovare un lavoro vero. Se n'è andato lasciandoci soli quando avevo 17 anni. Mia madre vendeva polpette in una scuola locale. Siamo sopravvissuti con il suo salario giornaliero, che ora so essere stato meno di $1 al giorno. Mi sono trasferita nella capitale di Haiti, a Port-au-Prince, per il college, che ho frequentato quando ho potuto ottenere i soldi per pagarlo, ed ero lì quando il terremoto ha colpito la città. Ero su un autobus, stavo andando a lezione. In seguito ho saputo che l'edificio della scuola era crollato, uccidendo molti dei miei compagni di classe. I palazzi crollati, le strade interrotte, la corrente elettrica saltata, la pista dell'aeroporto gravemente danneggiata, le comunicazioni quasi impossibili, macerie ovunque. Quando sorge il sole, questa è Port-au-Prince. La capitale di Haiti non ha dormito, l'incubo è realtà. In una città da 2 milioni di abitanti sono in migliaia... Con i ripetitori dei cellulari distrutti non riuscivo a chiamare la mia famiglia. Per 5 giorni mia madre ha pensato che io fossi morta. Mi ci è voluto un tempo lunghissimo per percorrere i 67 chilometri che mi separavano da casa. I ponti autostradali erano impraticabili, dovevamo scendere dagli autobus e camminare fino all'altro lato. Una volta a casa ho trovato la mia famiglia che dormiva per strada. I mesi successivi furono un incubo, ho cercato di dormire il più possibile perché altrimenti sentivo i morsi della fame. Infine, nel profondo della disperazione, ho accompagnato un amico a trovare quella che lui definiva la sua guida spirituale, un sacerdote voodoo. Appena mi vide, capì cosa non andava. «C'è un'ombra sulla tua vita», disse. «Anche se entri per prima in una stanza, sarai sempre l'ultima ad essere vista». Scrisse una ricetta, cipolla verde, cucchiaio di legno, gallo giovane, e mi disse di tornare quando avessi raccolto quegli oggetti. A casa chiesi a mia madre i soldi, ma lei mi disse ti ho cresciuta nella via della luce, questa è la via delle tenebre. Essendo lei una cristiana devota, disapprovava il voodoo. Le dissi che era alla disperata ricerca di un cambiamento e alla fine lei si arrese. Ho recuperato la ricetta e sono tornata da lui con mia sorella. Lui ha ucciso il gallo e, usando il suo sangue, ha dipinto il mio volto. In seguito ho fatto un bagno in acqua infusa con foglie di agrumi. Quando io ho offerto a mia sorella un pezzo del gallo che era stato cotto, il sacerdote mi disse: «No, mangia il tuo cibo prima di chiunque altro». Una volta a casa misi un bicchiere d'acqua sotto la luna piena, poi mi svegliai prima di chiunque altro, presi l'acqua in bocca e sputai nella direzione dei quattro punti cardinali. Il sacerdote disse che dopo sarei stata di nuovo pulita e luminosa. Aveva ragione. Mesi dopo, quando sono arrivati i bianchi, cioè gli operatori umanitari, per lo più europei, sono stata assunta da una ONG, si chiama Oxfam International, per lavorare come specialista di igiene nelle tendopoli. Ho guadagnato più soldi in un mese che mia madre in un anno. Poi, in ottobre, quando è cominciata l'epidemia di colera, sono stata trasferita alla campagna di salute pubblica e sono finita nei campi profughi ad insegnare prevenzione. Un giorno noi igienisti siamo stati invitati a visitare il nuovo centro di cura del colera appena aperto. Trovammo una serie di tende montate su ghiaia bianca. Quello che ricordo più di tutto di quel giorno non è l'odore di quel posto o nemmeno l'obitorio che stavamo costruendo. Ricordo solo l'uomo che vidi uscire dalla tenda con un secchio da 10 litri in mano. Era bello, entusiasta e biondo sotto il sole. Non mi sarei mai aspettata che il mio gallo fosse bianco. Quel giorno ci scambiammo uno sguardo, tutto qui. Quando tornai a casa, dissi a mia sorella che avevo visto il mio gallo, ma temevo che non l'avrei mai più rivisto, era stato un caso. Invece no, ci vedemmo di nuovo, a un concerto. Si chiamava Shander. Quando mi chiese in lingua creole il mio numero di telefono, glielo diedi. Il giorno dopo mi svegliai e scoprì che mi aveva mandato un messaggio di buongiorno. E così abbiamo iniziato a frequentarci fuori dagli orari di lavoro. Ed ero felicissima. Un giorno è venuta a trovarci mia nonna, che vive in un villaggio lontano dal mio, e quando le ho detto che avevo un lavoro, era incredula, e mia madre le disse: «E non ha trovato solo un lavoro». Quando le raccontai che Shander era americano ed era bianco, lei mi disse: «Non avrei mai creduto che i bianchi potessero essere buoni». Lei volle a tutti i costi che io lo portassi a casa sua per conoscerlo, ma io ero preoccupata per le strade terribili e per il fatto che la casa di mia nonna era senza pavimento e infestata dalle termiti. Ma Shander fu felicissimo di incontrarla e dormimmo da lei una notte. Poi, dopo 3 mesi, il suo visto scadde e lui dovette tornare negli Stati Uniti. La prima cosa che Shander fece quando atterrò a Miami, prima di chiamare la sua famiglia, fu di chiamare me. Dopodiché cominciamo a parlare per ore, ogni giorno. I vicini mi dicevano che non sarebbe mai tornato, che io ero solo un modo per passare il tempo quando lui era qui ad Haiti. Ma al telefono mi chiese se volevo andare a vivere con lui. Non sapevo se facesse sul serio. Io non avevo mai lasciato Haiti e non avevo mai preso un aereo. «Perché ti dovrebbe portare in America?» dicevano gli amici. E invece no. Lui è tornato, ed è tornato con un anello. Si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. E questo è accaduto 10 anni fa. Ci ho pensato tanto. E il risultato è che ti amo. Cosa? Ti amo. E che cosa pensi che ti risponda adesso? Per esempio, anch'io ti amo. Preferisco me ne vado. Allora non significa niente per te? Mi dispiace, Harry. Lo so che questa è la notte di Capodanno. Lo so che ti senti solo, ma tu non puoi arrivare qui, dirmi che mi ami e aspettarti che questo risolva tutto. Le cose non funzionano in questo modo. Beh, come funziona? Non lo so, ma non in questo modo. Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Nei film americani le coppie hanno quasi sempre delle cose in comune. Chandler ed io non parlavamo nemmeno la stessa lingua. Lui stava ancora imparando il creolo e anche se io ora parlo correttamente l'inglese, allora non lo parlavo. Ma ora sappiamo qualcosa che il cinema americano non sa. L'amore ha una lingua tutta sua. Sono nata ai tropici, una ragazza nera nel paese più povero dell'emisfero occidentale. Mio marito è nato al nord, un uomo bianco, nel paese più ricco della terra. Ma dal giorno in cui ci siamo visti, per la prima volta, al centro di cura del colera, ci siamo trovati, nudi, l'uno di fronte all'altro. Semplicemente come Naomi e Chandler. Da allora, per migliaia di notti, ci siamo detti ti amo al buio. E poi ci siamo addormentati, meravigliati, che ci siano voluti un terremoto, un'epidemia e un gallo per farci trovare. When she came into her power, she was younger than the others, wasn't ready, slower learner, but the power it was in her to control it and to use it wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers when she came into her power. She was looking for her scissors. Complimentary wasn't given, and as ever, double-edger would remind her that they La storia di Chandler e di Naomi l'abbiamo letta su quella rubrica meravigliosa che si chiama Modern Love, che il New York Times rilascia ogni settimana, che è diventato anche un podcast, che è diventata anche una serie televisiva, che è diventata anche un libro. C'è tra l'altro un libro che è stato tradotto in Italia da Rizzoli, che si chiama proprio Modern Love, se volete un assaggio di alcune storie. Questa non la troverete perché è posteriore alla pubblicazione del libro, però online trovate tutte queste storie bellissime, molto semplici, alcune semplicemente leggere o laterali rispetto alle storie che conosciamo, ma sono tutte molto belle. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui la storia di Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova... Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no. Proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo, Spezia, so che sei bravo. Linee d'ombra. Immaginate di avere una persona cara molto molto lontana, che a un certo punto sparisce, non la vedete più, ma è una persona molto cara e ha lasciato un grande vuoto, ha lasciato un grande buco. E a un certo punto ne appare un'altra di persona. Non è lei, non è quella che avete perso, ma è una persona che dice, lo dice lui e lo diceva la vostra persona cara, dice di essere molto amica sua, di essere stato molto amico di quella persona. Ecco, all'improvviso questa nuova persona che arriva nella vostra vita sembra essere in qualche modo, sembra incarnare un pezzo della persona cara che avete smarrito. È esattamente quello che succede alla famiglia Cocco quando a un certo punto si presenta questo giovane legionario olandese che era amico di Antonio. La storia che vi stiamo raccontando, la storia del giovane Antonio Cocco che scappa da Venezia negli anni 50, raggiunge la Francia, si arruola nella legione straniera e poi, ahimè, sparisce. Ecco, la storia di Antonio Cocco è una storia che parla anche di amicizia e parla anche di come cerchiamo di elaborare i lutti e cerchiamo di capire noi, quelli che rimangono, cerchiamo di capire come non dimenticare una persona che se n'è andata, che prima se n'è andata molto lontano e poi se n'è andata così lontano da non tornare più. La puntata di oggi che Mauro Pescio ha raccolto insieme a Gianni, il fratello minore di Antonio, all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano un mese fa, racconta di questo pezzo della vita dei familiari di Antonio, ma anche della vita di tutti noi, cioè cercare di riportare in vita, ma nemmeno riportare in vita, cercare di tenere con sé le persone care che non ci sono più, che sono andate via, grazie ad altre persone che sono state loro vicine, e cercare di fare quella cosa instancabile e infinita che facciamo sempre nella nostra vita, cercare di raccontare o farci raccontare della vita di quella persona che appunto se n'è andata, per tenerla in vita, per tenercela vicina, raccontare storie, quello che cerchiamo di fare tutti i giorni qui a Linea d'Ombra dalle 15 alle 16 su Radio 24. Ma torniamo là. Torniamo prima in Algeria e poi andiamo a Venezia e conosciamo questo giovane olandese amico di Antonio. Una cosa che non riesco a capire: perché non ho preso i soldi? C'è qui un olandese che è al bureau ed è addetto a queste cose e nemmeno lui riesce a spiegarsi il fatto. Theodor Martin Kassen, che poi è diventato il miglior amico di Tony. Beh, è diventato il miglior amico di Tony, sì, e perlomeno quello che ci scriveva, che è venuto dopo a casa nostra. Anche lui capitato nella legione straniera, anche lì per tutta una serie di fatti avvenuti. Loro avevano delle colonie dove in Australia, la sua famiglia, da qualche parte, che poi è olandese, che poi è andata male sta roba e trovandosi dentro sto casino successo così, si è iscritto, ma non per voglia di andare in straniera, in qualche modo coinvolto da questa situazione economica un po' drammatica della sua famiglia, in qualche modo così, ma anche un po' in maniera più superficiale, se uno vuole saperne, lui, infatti era sempre stato dopo, lui è mai stato un bravo legionario, ecco. Martin conosceva bene la Marisa, di cui aveva seguito per lettera le vicende, perché è quella che doveva sposarsi, per cui aveva sentito Tony parlare, e conosceva poi la Mariella, e entrambe non ci sono più. Sicuramente era una famiglia che non l'aveva abbandonato, una famiglia che rimaneva in contatto anche con mio nonno, una famiglia che, ben sapendo appunto dell'amicizia che c'era tra Antonio e Teo, una famiglia che ha continuato a seguirlo anche quando lui è stato per lungo tempo a Venezia. Tieni conto che quando lui organizza la fuga si appoggia a un amico che dirige una compagnia, cioè quantomeno la sede di una compagnia di navigazione a Orano, che è un porto importante per il Nord Africa. Quindi presumibilmente aveva contatti. Presumibilmente sì, frequentava in origine un mondo assolutamente normale, non dico internazionale, ma quasi. È possibile che il padre avesse delle cose all'estero? Era grande e grosso, ma non era per niente una persona atletica, aveva un sacco di malore sue, si è beccato anche la malaria. Io mi ricordo che ogni tanto, quando un periodo che era a casa nostra, gli capitavano questi colpi di giornate di febbre altissima, che delirava, che mi andavo a trovarlo, che portavo l'acqua e cercavo di... Eravamo diventati, non dico amici, ma abbastanza, insomma, no, perché mi piaceva moltissimo stare con te. Avrà avuto 25 anni, 30, del genere. Insomma, tutte le storie che mi raccontava, a me mi affascinava, come raccontava di tutto, no? Per cui io sentirmi parlare, raccontare della giungla, delle robe così, mi diventavo... E si andava spessissimo in barca. A long time friend, something bothering you? Tell me what the problem is. I see what I can do. There are times we disagree, we agree more than we don't. We won't always see eye to eye, but we will more than we won't. We got friendship, yeah, the kind that lasts a lifetime. Through all the hardships, you know you's a friend of mine. We got friendship, yeah, the kind that lasts a lifetime. Through all the hardships, you's a friend of mine. On the street, I'll take you in. If you're hungry, I'll give you food. If it's money you need, I got some say. If you're sick, I'll visit you. I've been where you are right now. You saw me through it all. I lean on you, now you lean on me. And I bet I won't. Oh Lord, the kind that lasts a lifetime. Through all our hardships, you know you're the good friend of mine. Vi ricordo che potete recuperare in podcast tutte le puntate della storia seriale, così come potete recuperare in podcast tutte le puntate di Linea d'Ombra sulla pagina di Linea d'Ombra sul sito di Radio 24, radio24.it, oppure sulla app di Radio 24 o su qualsiasi strumento utilizzate per scaricare il vostro podcast. Vi ricordo anche che potete mandarci la vostra storia, linea d'ombra@radio24.it, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Grazie a Mauro Pescio, grazie a Luca Micheli, a Danita Panizza e a Paolo Corleoni. Noi ora diamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!